Luca Maledici. Oh signor. Ah, è Catalino. Chi è? Chi è? Ah, è Catalino. Chi è che mi chiama? Ehi, dormi, dormi. Cosa dormi, dormi? Sono seduto, non sono addormentato. Ehi, papà, papà, ti ho mandato, guarda quella foto. Ehi, sto guardando. Tutto bene, ci vai. Eh sì, ma attenzione, sempre. Mai lasciarli a secco, capito? Così che... poi da ogni pescata io tolgo la bobina dal mulinello, la metto nell'acqua in un recipiente fino a coprirla del tutto e così lava via l'acqua di mare dal filo. Io uso trecciato tra l'altro, non uso lenza. E anch'io ho due mulinelli col trecciato, 2005 sono fatti apposta per quel lavoro lì. Mi chiamo Diego. Però sono nuovi miei, cosa li ha fra fare? Siamo avanti, adesso è il periodo, da adesso fino a maggio, dipende. E innovando, non mi sento bene, no Luca, se no non sarei andato. Cazzo, mia moglie è a letto, siamo parati, cazzo, di manassira ed è malata. Ma dimmi tu. Poi l'aria di mare fa benissimo, guarda, fa benissimo. L'ho portata, eppure non c'era né freddo né niente. E le è mancata la voce. Vai due a pillara. Ehi, vabbè, ancora c'è freddo a scendere così, a passeggiare. Cazzo, chi dove vabbè si ha fatto il bagno nudo. Oh, boh. E l'abbiamo voluto vedere. Non era un bello spettacolo. Ehi, vabbè, per dire. Io lo stesso non sono guarito ancora. Aspetta un attimo Luca che devo andare a pigliare il capo. Ehi, fai tanto, sto chiudendo il mulinello. Ho visto anche quella che mi ha mandato stamattina. Le temperature saliranno. Cazzo, uno con l'eco ce n'è lì. Bubu. Buiuia. Agnagna. Cosa c'ha lì? Ma cos'è che? Cos'è che? Ehi, ehi, cappa, cappa. Che va, Luca, che grasso gli metti tu? Aspetta, ti mando una foto, Natalia. Questo è bianco, bello, e ingrassa la mela. Grasso di... non si capisce. Aspetta, perché mi si è mosso il telefono, aspetta. Cos'è cantando il viraggio di suia? Ma è eccezionale. Eccezionale veramente. Valdellina là praticamente. Sì, quello lì, sì. È ottimo. Chiere. Negli ingranaggi ci vuole quello. Sì, ma poi ottimo anche d'estate. Non lo scioglie, molti grassi il sole e il caldo lo sciolgono. Questo no. Questo rimane sempre bello. Non si ingiallisce. Vedi, me lo devo comparare che io non mangio. Io ho roba per lubrificare le armi, ma no, non va bene, perché il grasso non ne ho. Quelli sono oli, sono quelli per le armi, giusto. No, questo ci vuole, ma ci sono anche barattolini più piccoli, capito? Anche in tubetti addirittura. Ehi, basta abbigliare la vasellina in tubetti ed è uguale. E allora. E dovrei averla io. Normalmente una cosa la più idratata, ma al limite me lo compareggio un tubetto, perché quelli grandi non ne ho mai ingrassato io. Ogni tanto bisogna ingrassare, non sempre, perché non è una cosa che capito, però ogni tanto poi ti accorgi quando inizia, senti gli ingranaggi che iniziano a lamentarsi, capito? E te li zendi che vivo l'ugrasso. Ah, questi i miei sono nuovi, là, per quello forse. Che non si sente nulla. Finisce la grande emozione. Uno mi si è rotto. Oh. E infatti infatti va a recuperare Giusù la bobina e boh, e tiro rampo visto, a chi ha sgranato lui. Cazzo deve essere va ad ingranaggi in plastica a Trento, non l'ha mai abito, eppure lo apro, vedete. Sì, plastica. Ed è Tubertini, mi. Cazzo. È sgranato uno di quelli lì, infatti quello ce lo devo buttare. Già ne ho tanti mulinelli. Nei qua ce lo stanno andando. Te lo prendi direttamente così, è anche più comodo. Aspetta, ti sto mandando la foto. Ma già ne ho mulinelli, ce ne ho due da 2005 per quelle due cannette. Quelli grandi sto parlando, già ne ho, poi ne ho altri per quelle cannette per il porto, ne ho altri due. E insomma, dannaggio, uno mi diceva ma chi c'ha bolognese. E anche la pesca con la bolognese è una pesca di pazienza lo stesso, capito? Io ce l'avevo, facevo sia bolognese, soft casting, però certo, cucca più lesca che ma non ne voglia più a bene, capito, anche se è una passione. Grazie così, ma si geggi buru, capito? Già lo so, ne ho due per il soft casting. Due di quelli per il porto, una bolognese, dopo ce ne ho due di quelle piccole per l'edging. No, quello che ha sgranato sicuramente è, l'avevo preso nuovo, della Tubertini era questo mulinello. Io dico va l'ingranaggio dentro di plastica, non è possibile che sgrani così un mulinello. Chiava Rogero. Chiava. Quando lo apro te lo faccio vedere, Luca. Ti mando la foto. Se prendi quello da come quello che ho io, conviene molto di più perché costa solamente un euro in più. Alla fine, capito? Che è da mezzo chilo però, quello che ho io, mentre quello che ti ho mandato prima è da 125, cioè per un euro in più ti conviene mezzo chilo. Oh Natalie, capito? Spendi un euro in più ma c'è mezzo chilo. Il grasso stai dicendo. Ma oggi non entra nessuno, tutti morti sono lì. Ah, oggi saranno tutti innamorenti, saranno, che è San Valentino, che va che vi penso. Situazione, capito? Va bene, come dice? Ho detto va bene, Luca, cosa stai smanettando, Luca? Lugariello, attendo, Lugariello. Ah, brutto nonello. Stanotte per punizione brodino di mamma ti faccio mangiare, hai capito? Tu sai. Eia, se mi rispondi così per forza ti faccio mangiare brodino di mamma. Senti su, Luca Flipper, tu e boh. Tutti morti. Mi a Memi, buonasera. Buonasera. Ciao Luca, ciao Natalino. Che pagava? Tutti mutti. Buona quella crema, ecco, la Zabaglione, cioè con il muffo. Visto l'hai. E io con la marsala l'uovo. Allora, siccome quei vinili ho trovati piccolini, allora ne ho fatto uno solo con la siringa, ma ha muriato, ho preso il coltello, ho tirato in due, pulito un cucchiaino dritto e gli è bagnato. Qua, comunque la buona è questa crema marsala che ti ho detto, no? Buonissima, Natalia. Ciao Tony. Ciao Luca. Già sono buona, sai cos'è? Oggi ho azzardato, mi sono mangiato una frittella stamattina e... Insomma, non ho pranzato, mi sono mangiato delle tramezzine perché ero in giro. E sono andato in un bar, mi sono bevuto una birretta e una ciabatta con la crema. Adesso aspetterò un bel po' di mangiare queste cose. No, io mi sono fatto la crema in casa, capito? Mezzo litro. Ma Natalino mi ha detto come fare, l'ho fatta, questa è la seconda volta, ho preso i bignè, la siringa. Ma quando ho pulito la siringa, ci ho pigliato un cucchietto, ho tirato in due, buccia la crema dritta e magnati. E ce n'è un bel bene rimasto, ma non ce la faccio a mangiare tutta troppo. Poi io ho il diabete, ho visto il glicemia in basso e ne ho approfittato un po' stasera. Magari tu non hai dimestichezza col sacchetto. Io invece forse mi presta con un sacchetto a pianale. Natali, vai tranquillo che come faccio io, taglio in due, un cucchiaio dritto, una bacia all'ascia e via. Anda bene Meda. In quei giorni. Oia, oia. Che si dice, che si dice? Che si dice? Da un mese e mezzo, ormai. A rimane ha dibuciato a mia moglie di... a Mari, siccome lei soffre di bronchite asmatica. Invece di valere la gabbada, va il cuccata che è tutta messa male. Anche la voce gli manca. Addirittura. E a te ti è passato? Ancora niente. Me ne volevo andare a pescare e a giù di Mudo, sai che... Che mi va di amare, compreso là. No, no. Per il momento, se non mi basterei, non vando. Tu pensa che stamattina ho fatto un messaggio vocale, prima il buongiorno, il messaggio no, di Franco, California, poi il messaggio vocale, da come stava andando, mi ha detto, già stanno meglio, lascia fare una cosa, rimane di all'inizio, che è peggio di prima. Ma io non l'ho sentito per niente a Franco. No, io l'ho telefonato, poi capito. E ci mandiamo un messaggio vocale, pure ci telefoniamo. Però con la gola è messo male, cavolo. Lo so. Ma la voce grossa grossa, non è teso come ti va bene. E allora. Bobo, pigliato, Mario, pigliato. Bisogna che attenti per forse in giro, avanti Luca. Sono ancora raffreddato, vabbè, ora mi è passata. Che mi hanno regalato questo miele, guarda che se dovesse capitare, almeno mangio una cosa sana, me lo ricopro, vabbè, già ce ne ho ancora mezzo chilo, no, saranno 400 grammi, 350. Ma veramente, la mano di Dio, questo spray, sai che ci fisso? Facevo il miele, nell'ate caldo, ho fatto la mano di Dio. Il miele è la cosa più naturale e più buona che c'è, poi se specialmente è fatto proprio dalle api. Se uno l'apicoltura fa, cioè uno la butti mi sembra che lo fanno proprio loro, sono le api. Ed è un bel buono. Anche io che c'ho mal di gola prendevo il miele. Buono. Natali. Sono qua. E prenditela. A Zana Matta da uno da un parcheggio, ma dimmi tu. Ah, non l'ha avuto nemmeno. Andava. Sì, che è pietà. Sempre un parcheggio in ammazza. Si è sentita la 350 sotto, dai, non sembra così messa male con mal di gola. Adesso gli sta tornando la voce. Ma Franco dice che forse già si andava lui, a Platamona, che sotto gli alberi pini già li fa bene, mattina presto, lui invece, non si è fidato. Te c'è un macello, mia. Bisogna tapparsi, lui ci ha fatto una bellissima giornata comunque. Io devo fare un lavoretto, cioè due lavoretti, uno l'ho fatto, l'altro ho detto continuo a fare l'altro, no, che bisogna riposare domani, avanza domani, dopo mezzanotte, poi finimmo. prima Fini e prima Di Baga. Sì, ma ha detto domani è sul Dini, non c'è problema, ho detto, non ti preoccupare. Avanti Luca. Aspetta un attimo. Un attimino che vado un attimo in bagno. Avanti in dita per la pagazione. Arriva forte in camera. Infatti, quella stiamo ascoltando. Adesso domenica inizia lo show del record, Torra. Cosa inizia domenica? Lo show del record. Non ho capito. Lo show del record. A canale 5 con Jerry Scotti. Ah, ho capito, ho capito. Show del record. Ecco. Andrà bene. Poi, che giornata. Le immagini che ieri sono andato di nuovo al supermercato e ho preso quei bignì, quella cosa lì, e poi tra l'altro mi sono dimenticato sempre l'aceto di miele. Sempre mi dimentico. E niente, mi sono portato un ricevitore appresso, quello, lo Yeiso portatile, solo ricevitore però. Ah, sentivo un po' di canali. Su canale 10, poi c'era lo sito Giulio incazzato, c'era una portante, da quanto pare. E siccome stava, come stava parlando, stava insinuando un po' agito, ma non è se che da me, allora cosa ha fatto? Poi l'ho telefonato e poi alla fine ho detto, ascolta, guarda chi le sono, guardati la data, io ho lo scontrino, mi davvero cantano in buccia la portante. Quindi, non c'è problema, capito? Io non è poco importante, se ho buoni la portante è poco baracchi di macchino, io l'ho già detto una volta, vedo che sono a casa tua e ti metto la portante. Quindi dentro il comune c'è mio. E la stanza buona la portante. E infatti, così il giorno che ti è mancata la luce, che tu eri con il ricevitore, lo stesso con quel portatilino, quello gli andava dietro, hanno cominciato a... E c'era sempre la portante. Ho mandato anche la foto, c'era anche il foglio attaccato al palo, come mancava la tensione dalle ore 9 fino alle ore 15, e non dico male, ero seduto in cortile, al sole io. E io gli avuto buia. Vai, quello che... Ma chi mi vuole pensare che si male piazzi, io sono su questa cosa troppo precisa, non è, sono, non è poco importante. Cos'è la tabula importante? No, non mi interessa niente. Però, vedi, ogni volta che parla Giulio ribona una portante. E ho sentito qualche cosa che a una persona ha detto, mira, mi conduio, e da là, detto, cazzo, buco, io cazzo chiede a me. Ma, vabbè. Ehi, vabbè. Quindi proprio davanti al mio per quello, quanto che rapido. Vuol dire ha fatto qualcosa a qualcuno e magari si sarà risentito, non lo so. E ha detto che lui chiude la frequenza, si compra un bel lineare, 1000 watt, è buono, importante, fa battimento sui canti canali e chiude la frequenza. Vuol dire che la voce che si rampa un tutto a vero. Quello che avete visto, ma... perché? Ma... No, non è così comunque, Natalia, non ti preoccupare, che non è buono, importante, non è... Ma... C'ho un bel soldi, qua, là, compro un lineare grosso, ma tu puoi vivere bene in piazza. La portata non è buona, te lo sa Buruetto. Sono le zoccane buone, io non le zoccane, ecco. Ma a me quando mi sono tutti questi cosi non mi piace. Già quando erano i buoni della puttana, a Giubiliato e a Giuserrato, Doni. A chi non mi piace questi cosi? Guarda, io stamattina stavo parlando con un vecchio civico e c'è fuori, per la marca eccetera, ma fa una cosa, venditi tutto. Ti compro un bel apparato, che per 45 minuti sono gli OM pirati praticamente, quelli senza patentino. È come la 27. Sei tranquillo, di tutto continente, ciape fa vedere, sei tranquillo. Boh, basta. Cosa c'è anche visti? Nella 27 per sempre casino, beh, ma. Ma io sono in quella frequenza, non ci sta andando nessuno, perché hanno fatto un repulisti. E hanno arrestato a tutti, a quelli che andavano lì, arrestati? Addirittura ne hanno arrestati. Ah, sono roba in bruttissima, hanno il ratto, e c'è pure in giornale. A chi erano i scrimenti la frequenza, Raienzi chi era preposta chi sa frequenza. Si sono lamentati col governo italiano e allora hanno fatto un bel repulisti. Ma che ma me lo dici oggi che è la frequenza tranquilla, nessuno ti rompe la scatola e guarda ci capisci. Dai, non venne nessuno in chi viene fatto un repulisti che non va più nessuno in chi. Ma io ci sono andato con il ricevitore piccolino che ho io, quindi mi fatto non ci dice nessuno, vabbè con l'atterino piccolino cosa fai, non ti denuncia, ma via. Vabbè, una cosa insomma. Mi pare se vedo tutto davvero e non mi dico più nulla, cosa ne posso. Cavolo, l'antenna puro e ciccia. Sempre casini, ma di mettersi scrozzate, boh, ma carità, che se buona portata, chi dà scrozzate buon vedì, e chi tu fate casino, e poi va, ma non ne va bene. Non è che la si utilizza a fare un bel gruppetto, parlare tranquillamente, ci si trova, una rosita, un caffè, chi dà, no, casino, sempre casino. Beh, non mi piace più. Ah, chi non che sa, sai, non siamo stati mai, non a fare niente. Per anni, sei stato il promotore. Non l'avevo proposto io quelle cose che stai dicendo tu, però è inutile. È nata guardando i canestri noi, non si può ne raccogliere, e ognuno pensa mai, due basta. Ranieri. E dopo fanno casotto, se muoia quattro iati, in più si pone in casa di Ciuba, è logico che ti ribalta la gara. L'altra sera erano roba di 10-12 persone in frequenza, se no stavano ripopolando, speriamo che continua, poi invece... purtroppo se i clienti vanno a mettere dai Natali, cosa vuoi fare? Bello anche prendere anche una piccola sedia in affitto, ci potevamo ogni mese un tonto, si facevano, non so, tipo le tessere, come c'era Radio Club Nord Sardegna una voce, si reggeva un presidente, un vicepresidente, eccetera, un segretario, eccetera, tranquilli, tutti tra di noi, qualche giorno si organizzava una bella cena, no? Quello che è insomma. Invece no, che cosa vuoi fare? Le gelosia, di voler là, ma pagosa, ma no, giù pris. Poi con Ranieri. Tu distruggi i miei occhi. Io che ci tenevo perché. Non siamo stati buoni mai a fare niente. Lo stesso tipo di cultura, ragazzi, è una cosa importante. Figli della stessa. Tu ti lasci luoghi, attichi la roba, invece no, che non attichi mai niente. Presenti, poi quando entrano in ballo i soldi anche peggio. Non so cosa dite Natalia, io ripeto, io ci starei a fare una cosa del genere, però è un passatempo anche la sera, noi siamo pensionati, e i giovani, CB, eccetera, no, si va a denunciare, vuol dire che pure rimane così e si abbia luci. Io sono sicuro che ci sono parecchi CB, anche anziani, e pensione, eccetera, che sono in ascolto, non vuole entrare, che intendi un casino, dice no che lo faccio mai un te, io sono sicuro, se fai una cosa del genere, che la cosa si allarga piano piano, vedrà che molti CB che manco si immaginiamo lui, vedi si scrive in bruetti, da dove è più silenzio, più tranquillo, e serena la cosa, e invece così, poi, va. Infatti, abbiamo fatto una bella sera, l'abbiamo fatto, e c'erano pure acciaffati la sera, quando magari non offendi nulla, se non andare un circolo, invece no, cosa, non siamo stati mai buoni a fare nulla in sassa di no. E allora, quando mi fai una bella soffetta, un circolo, ci fai vedere più del meno, insomma, Luca, sì. Sì, sono qua che sto mandando messaggi al telefono. Mi stavo leggendo la roba Sardegna anche. Era bella una cosa del genere che stavo dicendo, come ha detto anche Natalino, Luca. Che cosa, scusa? Aprire un piccolo ufficetto, fare un gruppo, diciamo, persone tranquille, iscriverci, farci la tessera, insomma, tutte queste belle cose, organizzarci, dare un fine settimana a farsi una rosita, una mangiata, insomma, qualcosa del genere. Perché no? Si può anche fare. Ma no, che la tarista ci aveva già proposto questa cosa qua, ma nessuno di volta fa casino con baracchi di abbaccio. Eh sì. Pazienza, tanto me ne basta la gana, io mollo tutto, stacco antenna, tutto, faccio blocco, vedo tutto e buonanotte. Tanto, e mi diverto col PC, e boh. Cosa vuoi dire? Sì. È un casino, non si può fare comunque, dai. Sì, se ci mettiamo in testa di farlo, lo facciamo. Ma ragiona Tarino, che non chissà se non riesce a far nulla, nessuno. Che, boh, non lo so, non si fidano, boh. Si organizza, se si fa presidente, vicepresidente, segretario, boh, basta. La quota ognuno ogni mese un tot, senza appigliare all'astrico, perché lo sappiamo che, insomma, non è che boh paga un bene. Quando vuole un piccolo percentuale, boh, che sai, fa l'affitto per la luce, mattami. Poi se sono soldi più, si fa qualche cenetta, si fa qualche cosa, qualche rosita, oppure, non so, si possono fare anche le tessere per noi stessi, eccetera, eccetera. Ci sono cose belle, se ce ne sono, dai. Idee belle ce ne sono, però bisogna avere le persone che accettano, capito? Lo so, oggi è vero. Che le persone devono anche accettare. Sì. Tempo fa ce ne avevamo via Bucari. Io ero vicepresidente, presidente c'era Giovanni La Freccia. E i primi giorni, sì, entro il primo mese tutti quanti si avvicinavano e poi non va giù più nessuno. Giovanni, cosa abbiamo a fare? Saremo tutte buonanotte. Non attichisci. Ma che dai. Ma come Radio Amatori, che Radio Amatori di Sassari. Non sono riusciti a fare la sede, manco per le scarpe. E non ne hanno sede. Che io mi sono dovuto iscrivere per fare l'esame gatta, a quelli di Porto Torres, io è una vergogna. Sì, Porto Torres c'è una sede. Sarà che scrivi voi però che se buscito vai più sai mito. Io non ho capito il perché, a prendere a un uomo, perché non ti piace fare una cosa del genere, vorrebbe essere solo isolato, cioè, non è vero una cosa del genere, riunirci, trovarci, vedere che spariscono le portate, i casini, tutto sparisce, perché, cioè, diventa una famiglia, invece no. Va bene, dici, casi da chi, fa vita, canali sparsi. E quando entra una bassola hanno lottato per qualcuno e boh dai quell'X per me non entra di più, boh, vedi, si allontana. Infatti sono così gente che è così, i cazzi puntini, zeni, gli animati ne poco di cosa, altro che noi. Se tu pensi, a Itti hanno il museo della radio, mai visto l'hai tu? No, non ci sono mai andato, perlomeno non ho mai saputo, è la prima cosa che sento. E ci sono so così zeni, io a chi mi sono andato pure a vederlo. Grandi film con cazzo. Ce l'hanno a Itti, e sono quelli di Porto Torres, sono. Quelli hanno la sede a Sassari, deve essere non sono riusciti a farsela dare a Porto Torres e ce l'hanno a Sassari la sede. Ce l'hanno con il Porto Torres a Sassari. Eia, che te lo sto dicendo? Io non ero iscritto con quelli di Porto Torres. Perché a Sassari non hanno sede, non fanno lezioni, non fanno nulla. Invece chi ti va in tutto? Si va in pure i puntini, i zeni, chi si è? Però la base ne la cosa. Beh, ma deve essere così. A parte che pulisci la frequenza, prima base, la tieni più occupata per le cose più importanti. Capito? Si può la sera parlare più del meno, poi ci si ritrova in sede, uno che non può, dice oggi non ha voglia, non ci va, non c'è problema. Capito? Si tiene in contatto, qualche novità, eccetera, eccetera. Poi stiamo cercando di fare qualcosa di novità. Se venite, ne accenniamo e discutiamo, mettiamo i voti. Insomma, tiene le persone più occupate, giustamente. Invece così, boh, non lo so. Non lo so, Natali, boh, a che punto si arriva. Si arriva come venduto tutto canto, boh, me ne passa tutta la gara a me. Beh. No, ma non ci siamo stati buoni mai a fare niente. Tanti come c'è da fare, parliamo un attimo prima. No, noi siamo... Non a te chi c'è a fare, la studia. Ma io vorrei fare una cosa più pulita, nel senso che ci scriviamo pure, dov'è che si può scrivere? In tribunale, non so, fare cose come che noi esistiamo, capito? Puoi fare anche soccorsi, puoi fare qualsiasi cosa, protezione civile, tipo protezione civile. Prima c'era il SER, c'era il servizio emergenza radio, si andava anche preso la cavalcata, eccetera eccetera. E un domani, avendo una cosa del genere, comportabile eccetera, possiamo sempre fare il servizio alla cavalcata, ti danno anche un incentivo anche loro, che quelli serviranno per la sede per comprarsi le divise eccetera eccetera. Ma ce ne sono pensieri, iniziative, idee belle, poi se non va decollato cosa? Farci niente. E a sera ero iscritto anche io. C'è ancora il tesserino del SER. Io facevo servizio pure a cavalcata, tante volte Santani era giovato. Vabbè. Facevamo anche la sassa del Porto Torres, io avevo avuto una pagiata sulla macchina, ragazzi. Anche tempi, e beh, invece adesso è tutto un casino. Togaglietti. Più che altro c'è gelosia, non ho capito perché, c'è gelosia di molte persone, è questo che frega le persone di Sassari. Infatti, no, non siamo stati mai eroni a fare niente di costruttivo, gli altri nei paesi ci fanno 10 a 0, ce l'hanno sempre fatto 10 a 0. Perché c'hanno più testa, più cervello, ragionano di più di noi. Questo dico, non è che noi non ragioniamo, noi ragioniamo, ma noi non si poteva vedere uno con l'ascio, ecco bagosa. Uno si compra un apparato grande, il fatto, guarda, l'apparato grande si è comprato, la gelosia. Io dico questo, se uno migliora io sono l'uomo più felice del mondo. Cioè se uno invece va in basso cerco di aiutarlo, capito? Invece però non è così, poi, e no che è un casino, è una gelosia, una bacia all'altra. Io se ci, cioè, ce la faccio fare aiutare una persona ce l'aiuto, non ho problemi, capito? Che cavolo, a me si piazza dove che cose, intende che cose, casini, boh. Luca, riprendi. Carlo mi ha detto. Poi. Io non sono d'accordo con te, perché io le persone mi ha aiutato. Le persone che si conoscono per comodità non sono persone quelle, non te ne fa un cazzo. Lo so, purtroppo non lo saci. Io non so più cosa dire, perché ripeto, cioè se uno deve giambare, può giambare, non lo faccio in giambare, uno è un casinista, lo faccio diventare più casinista di prima, non che così, a quanto pare. Siamo grandi vaccinati, pensionati. E ieri quando ho parlato con una persona, i bari a 7 e mezzo, raga. Chiudo la frequenza che deve darsi, io no. Non va bene, non va bene, così non va bene, la guerra continua. E come dici che l'Ucraina, che Zelensky vuole altre armi, e Ciccio Mattarella, sì, gli diamo le armi per almeno si risolve la pace, ma forse la compresa, tu risendi le armi per ammazzare ancora, per distruggere tutto. Ma cosa si dice? Togliere le armi per si distrugge tutto. Per carità, chi c'è buono presidente della Repubblica, ma non tenate, non si è noi. No, voi, per carità, mi lascio di gomma. Manuele, già sei aiuto, sì, bravo, sì. Guarda, arriva più forte la propagazione che tu, Manuele, ti supera. Ho capito ben poco. Io domani devo finire il lavoro che stavo iniziato stamattina. C'è un altro lavoretto sempre da quella persona lì, alle punti. E quindi... poteva venire anche il casino, raga. Ha detto che non è uscito. Non esce, lui non esce mai. Chissà, la sera chi è troppo freddo, oh Luca. E non mangiare invece che rimbiate le coperte in mezzo al limone, a Luca, c'è un prezzo. E lei? Così è Emanuele. Infatti ero in giro, mi sono ancora riposato questo pomeriggio. Sono uscito, ho preso la bici, sono andato a fare una commissione. Devo comprarmi un golf a collo alto, dai. Mi serve per... dovevo fare la sfilata sabato. E non ha di cinese, che sai tu, me l'hai detto di culo lì. Ciao amico, fratello, mi chiama uno. Golf a collo alto. Sì, vieni da qui. Casmati che la mia un coso, no. Ma ti chiama. Va. Quella per coprire il collo. invece stamattina mi ha chiamato il mio avvocato e mi ha fatto incazzare, la stavo andando in affacura, stavo andando. Dice, ti stanno dando il 50% dei danni della moto, il 50% non so perché era 1040 euro il danno, e se mi sono dei 400 euro è una cagata comunque. No, perché ti stanno dando il 50% perché tu hai fatto casino, io ho fatto casino, cioè dovrei aver fatto casino. Sì, quando hai avuto l'incidente, il giorno dell'incidente stesso lì hai fatto casino, ascolta dottoressa, non mi faccia arrabbiare, l'ho alzato anche il tono di voce, ma ha detto, e lì sta alterando, scusa io auguro, se lì esiste, falle avere quello che ho avuto io, quando ho avuto l'incidente, non riuscivo a rimanere con le fratture che c'avevo alle costole, non riuscivo a respirare, frattura al piede, alla mano, alle costole, e poi ha giubato un casino, ho detto solo due parole, sono passato col verde, e quello no, ha insistito, sì, ho preso il corrosso, la colpa è mia, mi viene una spostabilità che deve dare, non è che ho fatto casino, ma chi gliel'ha detto, faccia una cosa, prima dimmi queste cose qua, mi chiami i testimoni, che ce ne sono, e allora sì, io ho fatto casino, a te le immagini, ho pagato di mano, ma io l'avvocato del mare se lo manda anche da paese. Attenzione, don io, sai chi si vende, amico? La cosa a me zio si è venduto l'avvocato e ha preso causa e tutto. Le più belle canzoni nel mondo. E con tutto vi faria ragioni. E infatti io ho trovato l'avvocato. Ah guarda, io faccio già i conti, quello che mi deve dare, io non è che le sto dando la revoca. Io se ho soldi posso mettere anche 10 avvocati, forse perché non ha capito, non è che io non mi fido di lì. Ne voglio in più, capito? Lei si è offesa subito, c'era giù un preso, così, perché ha fatto 3-4 fax, ha fatto, non è che ha fatto altro. Io ho fatto tantissime lettere per il fatto che il macello che ha fatto lei, il macello, ascoltami, c'è che cosa che non esiste, è che io mi altero, ma piacere mi, che cavolo, a me fa incazzare che cose, ti giuro Natalia, non riuscivo nemmeno di un tunso, ma stiamo scherzando. Ho telefonato a Giovanna, la testimone, mi ha detto, ma stai scherzando, ma questo è un pazzo, lei era di fronte c'è la macelleria, sempre lì era. Se non riuscivi neanche a far vendare, è giusto l'ambulanza, non stava facendo impressa. Messo un po'. Ma guarda cosa vanno a inventarsi, capo. Ah, occhio, sai chi si vende, chi sta avvocato, stai attento, Doni. Sì, ha avuto notizie mio zio quando il processo era già fatto. Mi ha messo tutto. Ah, poi dice che sono andato all'assicurazione e ho fatto casino. Ho detto, ascolti avvocato, io lo giuro sulla tomba di mamma, io sinceramente non so neanche dove cavolo è questa assicurazione, lo sa che ce ne sono tanti in quel nome di quell'assicurazione a Sassari, non so neanche dov'è, sono a costa andare in quello che mi ha messo sotto perché so dove lavora, e dico, dov'è la sua assicurazione? E vado personalmente, dico, adesso mi registro, cos'è, sono venuto qua a fare casino, si dice no, ecco, allora non mi per iscritto perché l'avvocato mi sta dicendo questo, se no vi denuncio, stiamo scherzando. Io ho usato la situazione, ho lasciato fare sempre lì, mi lasci fare, ci manca dove magani, alla Rodriguez c'era giù un prisco, boh. Ma cosa vuoi ti dica, Tony, tutti gli avvocati sono ladri legalizzati, bisogna stare attenti, io sai chi ci vendi, amico. Io ho fatto male perché non c'avevo il numero di telefono di quello ufficio sinistra che c'è Via Italia, perché io 2 anni fa con la macchina della ditta stavo guidando il mio collega, è passato questo con lo stop e trabbiato in pieno, siamo andati l'infortunio giustamente, hanno messo quello lì, il mio collega conosceva che è sindacalista, quell'ufficio sinistra che c'è per Italia, tutto portato lì, ci hanno andato a fare fisioterapia, sono andato finita la fisioterapia, dopo neanche 10 giorni ce l'ha pagato da lì. Chi ha chiuso la pratica il 16 dicembre se vuoi ancora così, ah io, ma buffonente sempre, ma guarda ci stanno dando soltanto i soldi per i danni, come ha fatto andare, aspetta, non danni fisici, danni materiali, cioè la moto. Poi lei si è venduto anche la moto, sì, ascolti, lei non doveva venderla, ma lei mi ha detto dopo che l'ho venduta per una settimana, me l'aveva detto la figlia, non si vende la moto, perché la città non me l'ha fatto venuta. Poi gli ho detto anche lì, gli hanno offerto quelli, prenda quelli se lo perdo anche quelli perché la moto non ce l'ho più, nulla, picche, lei ha scritto come anticipo, non lo so io, poi no, ci sta dando quel tanto perché le ha fatto a casa. casino nell'incidente e poi è andata alla scolazione. Io, poi da tante accuse, a me cioè, mi fa capire di non avere più fiducia in lei. E forse come dici che tu non lì. Io mi ho dato che domani c'è la Bigliallucci. Io vedo, sento questo mese, non succede nulla, sono con voi del nostro avvocato. Cioè l'avvocato, metto l'ufficio sinistra e buonanotte. Tanto tutti i fogli ce l'ho io dell'ospedale, ho trovato solo gli occupi originali. Forse le fotocopie ce l'ho stampate con me le box. Guarda, una volta sono ricorso anch'io a quell'ufficio sinistra che c'è lì, salendo in piazza d'Armi era. E chi si brigano e la roba subito e via. Beh, allora. E dice, se io non vedo l'ora di chiudere la pratica perché ne so che tu fa troppi messaggi, mi manda lì la certa cosa, e me non mi dice niente, a chi mi devo rivolgere? Il mio avvocato è lì, non ho capito. Non mi dice se ha sollecitato l'assicurazione, cosa sono quei soldi, eccetera, eccetera, ma buffone di sempre, no, guarda, per carità, è arrivato a questo punto, io aspetto questo mese e poi metto i passi che devo mettere. Che poi va a dire se chiudiamo qua la storia, dice mi faccio tutti i conti, li faccio, mi dai i soldi, non sa che io soldi non ne ho, e c'è la pensione, eh sì, la pensione a te dopo, io ho fatto l'affitto, non mangio per dare soldi da lì, e lei non si preoccupa, no, non si preoccupa lì, anche allora la lì non le vede che si attacca la bovida, non ho compreso, quello mi bucano a me, vai fa da brava, vai, cazzo mi ha fatto ben arrabbiare, comunque non mi mandi più messaggi, non gliela mando più, non si preoccupi, se entro a fine mese non succede niente, salvo i passi che devo mettere, ok? Arrivederci, l'ho già dato il telefono. Sì, hai fatto che cerca di contattare un avvocato di visi bravi, a chi gli sanno mica bambini, o se rinduta, e così non ti casi nulla. Davvito, l'ha affamentato con la situazione, come si senti, 5 mesi che io, fatture qua, fatture là, che darsi, fisioterapia, non che sono bevi dammi, la situazione è tasco, l'avrei detto. Lo fai cazzare Chico e cerchi qualche scusa, adesso bravi, vedi, e gli fai chiudere tutto, fai finta che non lo paghiamo, e anche io sono lui di bocca, secondo me, ho tutti i documenti, pur penso che ho anche il messaggio di quello che mi ha messo sotto, e io l'ho fatto in cartaccia, c'è scritto colpa mia, scusa, mi sono passato con rosso, il sole di Luca, eccetera, eccetera, quindi, ho detto lo caccia anche quel foglio, la tira la coppia, io ne ho altri 5 sì, me l'ho fatto, quindi non c'è problema, non c'è bisogno, c'è bisogno, io ho tutto. Non si preoccupi, quindi più chiaro di così, vabbè adesso vediamo la tarina, io sento che comincia intanto mi, oggi già 14, altri 14 chiedimi e non mi si è finito, e poi dal giorno 1 marzo se voglio andare in altro lupo. Ehi Pagosà, a me gira viene ridotto male, pensa un giorno in Lanca, va via Bovaraccio, chi ci tira fuori su sotto, tira fuori giù, e non l'hanno dato nulla, l'ha saputo quando aveva già perso la causa in tribunale, ma dimmi tu se è possibile una cosa, anche l'avvocato si era venduto. E quando l'ho detto io sono andiamo in tribunale, e perché lo decide lì andare in tribunale? Lo decide l'avvocato, e lo dico io che sono avvocato, sì, ma se metto un altro avvocato, lo sembra un altro avvocato cosa fare? E c'è rimasta male, non me ne futti nulla. Io dice lì sta alterando e me e si mette le condizioni mie. Cioè, io ho già fatto casino all'assicurazione che non so neanche dove si trova l'assicurazione, uno, e se no andiamo insieme lì. Poi secondo luogo io ho dell'incidente quando ero per terra massacrato che non riuscivo a farvi da, che poi avevo problemi, cioè lo spavento mio più forte era andare lì, siccome io quasi un anno prima ho fatto operare fuori, dice Emanuele. Cioè, praticamente ha già pensato, e non come si è cagata qualche cosa. Lo spavento mio, cioè tiranti, la gabbietta di titanio, c'ho le viti lunghe nella schiena, ma buffonente. Avevo una cosa di agitazione di Maraura, io sono passato col verde buon maestro, agito acro, la volanza mi si è appoggiato, ma buffonetti siamo, no. Poi gli avvocati, Luca riprendi, ma Luca si è portato. Ma io non ho fiducia negli avvocati perché ho avuto problemi con i datori di lavoro. Ho avuto. Gli ho portato tutti i fogli per il gratuito patrocinio a questo avvocato. Allora cosa ha fatto questo? Si è applicato 700 euro da chissà che mi doveva dare, a te l'immaginate? E quindi l'hanno pagato i russi. Cari manitori, siamo fa dire, sì, ma lì non ancora non mi ha dato neanche un soldo, lo sa, forse non ha capito. Io all'inizio quando l'ho telefonato l'ho detto, la paga l'assicurazione, insomma è divina, quindi lo sapevo già dall'inizio, avevo il concordato, abbiamo fatto era quello lì, e lui va dire non mi ha dato neanche un soldo. E allora, io sto lavorando gratis, non sto lavorando gratis, perché poi il compenso è molto alto, già lei sa benissimo, perché più soldi danno a me e più la percentuale è alta per lì, quindi deve inventare il bocco, cacchi avvocati. Non c'è più fiducia in me, se continui così non c'è più fiducia. Io ho credo fiducia in me, vi avevo avuto. Se mi ha detto mi porti i fogli, l'ha buttato tutti i fogli, no? E quindi io non dovevo pagare nulla. Beh, quando è stato il momento di pagarmi, se mi ha contato 750 euro, Vizio. Da chi ci doveva dare a me? E me con tutto, che si può ordinare, l'ha già dovuto fermare i ricevuti. E me non l'hai denunziato. Per la denunziare l'hai avvocato, perché i fogli glieli ho portati per il gratuito a patrocinio. Beh, c'è gratuito a patrocinio, scusa, no, non devi pagare tu. E quindi, io no, te ne do. Ma fai un esempio. E poi innanzitutto la sedia innanzitutto arriva sul conto tuo, prima base, perché io sono l'avvocato mio. Io ho dato il codice, me l'ho dato direttamente. Quando arriveranno questi biglietti soldi? Questi spiccioli, perché sono spiccioli, dalla moto. E poi per i danni fisici ci ripareremo. Io ho detto lì, io voglio il minimo 50.000 euro. Magari, non si preoccupi, io ho il piede, me ne basta, che gonfie me ne basta. E mi dico legale l'ho anche visto. E l'ultimo che mi dico legale mi fa dire poi, ma il peso, circolazione del sangue, ascolti, io sarò profano su queste cose, lei ne sa più di me, però c'è un fatto, io ho sempre saputo, se io uno ha un peso specifico, la circolazione del sangue ha fatto due gambe, non una gamba sola, dove ha avuto proprio un incidente, poteva gonfiarsi l'acqua, invece no. Abbiamo cantato, ci cogliamo insieme a voi, continuiamo a farlo, perché sono canzoni. Ah, ma stiamo cominciando a finire, Tony. Allora, no, io problemi non ho tanto convenzionato, Natalia. Io posso pure sentare, andare in tribunale, a me ha fatto passare uno, due anni, invece me ne ha fatto assai. Però poi domando un bel dinamma a un me, perché allora dal giudice posso venire pure un bitri, posso venire. Questo è il mio piede, è sano, e questo è quello che mi hanno rovinato con l'incidente. E sono a fare il giudice. Allora il danno è ancora più alto, perché è un danno permanente, prima base. Vabbè dai, cambiamo discorso, dai. Vabbè, Luca ti sei annoiato, Luca non la bevana, dai ti do un bignè con la crema Luca, non dai neanche lo bignè voi, vabbè, vabbè dai, non c'è più nessuno a lì. C'era anche Luca Flipper, quello però sparisce ogni tanto. Emanuele, sì, Emanuele è sparito anche lui, Emanuele, la mia zia non beve. Sì, è un quarto. Hanno comprato mica zitto di mele, porca miseria. Io volevo farmi i broccolite in insalata, con un po' di pomodoro e poi un filino di aceto di mele, perché quello non è così forte. Invece l'aceto di uva è più forte, capito? E mi ripete che Giuseppe. Andrà bene. Aspettami che devo controllare roba a mia moglie. Oggi sono tutti innamorati dei vaccini a che San Valentino. E allora, oggi è San Valentino, cantina. Poi si stava lamentando, si stava la televisione che non so che partita stanno dando e dice questo è un oltraggio perché sono molti che sono tifosi di tutta squadra, lasceranno le ragazze o chi si sia insomma a vedere la partita e poi le trascura, il giorno proprio c'è Valentino. Ma a me sinceramente proprio il marchio del pallone non so che tifosi di nessuna squadra, se era mai me avrei bucato tutto il pallone, hai visto il casino, calcio scommesse, chi te che d'altro, ma non c'è più niente serio, no? Tu guarda, infatti dove hanno fatto così, i mondiali, addirittura anche in Kiwi Casino, che taglio di una macchina all'altra, 500.000 euro, un paio di denari ci sono abbastanza, là sono lì per fare ci piede di denari. Ma si ha misani devi. Allora noi passiamo nei salienti e nel Qatar abbiamo fatto il mondiale e che c'era in mezzo tangenti, chite, che d'altro, non ripassa mai. Non solo hanno una bella posizione la comunità europea, che mi chiamano un paio di denari, no, vogliono sempre più soldi. Infatti i marci sono quelli lì. Poi non parliamo per il ragione che sentiamo, quello, licenza premio, ergastolano, la riparti C, a una di dove rientra la sera, chi c'è uscito, ha ammazzato due femmine con la pittura, poi si è ammazzato questo. Io avrei condannato il giudice, e poi chi che c'è stato che l'hanno fatto uscire, il direttore del carcere, chi si chiama avvocato, tutti arrestati, a vita, va fatto uno. E infatti, ma casa sua, accaduto, e Castellani ha gli arresti domiciliari, si sente, non hai io, come fai a dare gli arresti domiciliari a questa gente? E allora, licenza premio, c'è l'inizio scopuccia, l'ha fatto per un paio di anni, proprio perché il cervello suo era malato, doveva fare chissà cosa, ma fuzza. L'ha tentata tutta, è uscito, mi ha ammazzato due femmine. Ma dimmi, due bicchiere, poi si è ammazzato questo. E intanto non c'è più la carina, Però dimmi tu, ha ammazzato due femmine. Non poteva vivere tranquilli se femmine, no? La gango alle 8 libero a fare ciò che ha fatto. La colpa è di loro, del giudice pure. E poi io, Natalia, l'ho sempre detto. La mafia sono i giudici, sono loro i mafiosi. E non solo loro. Se non vedo male, dovremmo avere... E chi i politici della zona? Non ho capito la serie. Non sono loro, e chi? I politici della zona. Chi si meglio, che sono d'accordo con i giudici, per carità. Quello è il tasto numero uno proprio. No, mi fa di meraviglia a me che su Salvini, che prima ha detto no le armi all'Ucraina perché vuoi continuare la guerra, quella e poi accetti e firmi. Mi sono già messo al telefono, un attimo. Io okay. Che.